testa bassa andavo via per imparare a spese mie che ogni giornata la più chiara muora al cadere della sera. D'amore non ne parlo più, mai più. D'amore no, d'amore non ne parlo più. Io ero già convinto che cominciasse insieme a te qualcosa più di un'avventura nei giorni falsi dell'amore. D'amore non ne parlo più, mai più. D'amore no, d'amore no, ne parlo più. Non voglio più dire o sentire le stesse cose che dicevi a me, che volevo capire, che volevo imparare, ma non erano più di parole per te. Stavo imparandole da te, erano nate in fondo a me alla stagione dell'amore, come le rose a primavera. D'amore non ne parlo più, mai più. D'amore no, d'amore no, ne parlo più. Sono qualcuno che non sa capire dove finirà, un viaggiatore senza via, in un deserto di bugie. D'amore non ne parlo più, mai più. D'amore non ne parlo più. Io non farò più la follia di scambiare il falso per verità e subire ferite che non vanno più via, e con me porterò fino a che morirò. La delusione coprirà lo scotto dell'ingenuità e un prezzo alto che ho pagato per quel ben poco che mi hai dato. D'amore non ne parlo più, mai più. D'amore no, d'amore no, ne parlo più.